grande e tenacissimo amore ha legato in ogni tempo gli uomini di Valnatisone alla loro terra. Dal giorno, e sono passati quasi 1500 anni, in cui Attila, secondo una suggestiva leggenda, avendo invaso con le sue orde il paese e volendo prendere con la fame tutta la popolazione, dovette cedere dinanzi alla caparbia resistenza dei valligiani. Narra la leggenda che i difensori si asserragliarono nella grotta d'Antro, una caverna naturale nella roccia, e che di lì gettarono al re degli Unni l'ultimo capretto e l'ultimo sacco di grano delle loro provvigioni, gridandogli che essi possedevano tanti capi di bestiame quanti peli contava il capretto e tanti sacchi di grano quanti chicchi erano contenuti nel sacco. Attila pensò che mai avrebbe potuto ottenere la resa e tolse l'assedio, e così la gente delle valli del Natisone fu salva. E più di 100 anni fa, durante il risorgimento e le guerre di indipendenza, furono questi valligiani a ritardare le calate austriache, scagliando enormi macigni dalle montagne sugli eserciti in marcia. Grande, tenace amore quello dei valligiani per i loro paesi arrampicati sul fianco scosceso dei monti, dove la terra è poca e avara di raccolti, dove il sudore dell'uomo deve tramutare in zolla il sasso vivo e il lavoro di due braccia non è sufficiente a sfamare tante bocche. Quante volte la gente di questi monti ha dovuto scendere in Furlania con un carretto carico di mele e di castagne per barattare la frutta con un po' di grano turco. E allora non resta che emigrare in cerca di una terra meno avara. Da tutti i 7 comuni delle valli del Natisone, 7 come i dolori della Madonna, gli uomini raccolgono in un fagotto pochi stracci e molte speranze e discendono gli arti sentieri del Colobrat, del Kum, del Matajur per affrontare le strade del mondo. Li accompagna il profilo mesto e soave dei loro monti, la preghiera dei loro cari, il loro pensiero costante ed affettuoso. Proprio in questi giorni la famiglia della studentessa Gianna Zuis è partita da Biarzo per raggiungere il padre che lavora nel Canada. I compagni di scuola hanno voluto esserle vicini sino all'ultimo. L'hanno accompagnata alla corriera, hanno agitato a lungo il fazzoletto con la gola secca e gli occhi umidi. Proprio così. Ogni voce, ogni gesto, ogni volto riallaccia un ricordo e un aspetto della propria terra per chi ne è lontano. Anche se il Natisone, che denomina tutte le valli dell'Alberone, dell'Erbezzo, del Cosiza, ha un colore d'acqua incomparabile, anche se il ponte del diavolo di Cividale è unico al mondo. Ma certo, è proprio e solo il Natisone. Inconfondibilmente il Natisone, questo fiume di cui parla in una breve nitida lirica un poeta del luogo. Ascoltate nei versi della sua viva voce. Sotto il ponte del diavolo il Natisone è vivo per la crosta di pane che un fanciullo getta ai pesci con dolce tonfo. L'acqua s'apre in cerchio, la trota sale a guizzo, a bocca, svaria sul fiume azzurro qualche bolla d'aria. Il Natisone scorre con le sue acque freschissime e al sussurro delle onde contro le rive si mesce il canto della chiesa di Santa Maria in Valle, antica di 12 secoli, della chiesa longobarda che specchia nel fiume la sua raccolta solitudine. Come quella dei pellegrini di Castelmonte, anche questa è una voce di preghiera per tutti i nostri fratelli lontani. Lontani dal paese, ma non dal cuore. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo. Quinta trasmissione dedicata agli emigrati all'estero. Balli del Natisone. Testo di Dino Menechini. Hanno partecipato alla trasmissione L'Ottetto di Capriva, diretto dal maestro Francesco Capello. Le allieve dell'educandato delle Orsoline di Cividale del Friuli. Un gruppo di ragazze di Lazis. Canti popolari. Musiche originali di Luigi Garzoni.